Allora diamo inizio appunto alla trasmissione di Mini Pimer. Siamo tutte reduci da questa intensa giornata, quindi insomma cercheremo di fare una trasmissione, almeno per quanto mi riguarda, con un po' di criterio, ecco. Allora, ciao Chiara, ciao. Grazie di essere venuta, Chiara Bonfiglioli, e, che arriva direttamente dal corteo, poi. E infatti, appunto, per quello dico, siamo tutte abbastanza provate, lei in particolare, insomma. Allora, questa trasmissione riguarda la conferenza internazionale di Belgrado che si è tenuta nel 78. Iniziamo subito con un piccolo pezzo che racconta un po', in particolare, un momento della conferenza. Carla Lavaioli, di ritorno da Belgrado, sul Messaggero di Roma, scrive che le analisi jugoslave sono, cito, impostate sulla vecchia linea emancipatoria. Lavoro, leggi, servizi, inserimento sociale, partecipazione politica, costruzione del socialismo, umanizzazione di uomini e donne come unico processo all'interno del sistema autogestionario. Si è parlato, è vero, anche di famiglia come momento determinante della condizione femminile, di separazione tra pubblico e privato, ma senza andare granché oltre l'enunciazione del problema. Le presentazioni delle invitate dall'estero, delle occidentali invece, che Raffaioli definisce come le femministe, parlano invece di, cito, oppressione maschilista, sessualità espropriata, elaborazione simbolica, inconscio, quotidiano, autonomia, teoria materialistica da costruire partendo dal corpo, e suonano a Belgrado come voci di un altro pianeta o addirittura come provocazioni. Tale conflitto di linguaggio e di esperienze esplode alla fine del secondo giorno. Non venite qui a darci lezioni, che ne sapete voi della nostra realtà? Era la dura reazione jugoslava. Se continuate a discutere di sviluppo economico e di autogestione, non approderete a nulla, ribattevano le femministe, e si chiedevano perché mai erano state invitate. Alla fine però, secondo le partecipanti italiane, il ghiaccio si scioglie all'alba del terzo giorno, quando le femministe occidentali hanno di nuovo l'impressione di stare tra femministe di casa nostra, con discussioni a proposito di sessualità, orgasmo, masturbazione, resistenza maschile alle leggi paritarie, maschilismo della stampa, eccetera. Dacia Maraini scrive che una linea comune è stata trovata nella riluttanza di tutti i compagni maschi, anche quelli socialisti, ad abbandonare i propri privilegi. E questo pezzo rende comunque la vitalità di questa conferenza, di questo incontro tra femministe occidentali e femministe della Jugoslavia. A quel momento lì a Belgrado, quando le femministe jugoslave avevano organizzato questa conferenza. Io per prima ti chiederei di dirci un po' come è stata prevista questo incontro, perché l'hanno provocata e in quale contesto politico erano i Balcani a quel momento. Sì, allora diciamo che il contesto jugoslavo dell'epoca era molto diverso da quello che noi abbiamo in mente adesso. Cioè, la Jugoslavia negli anni 70 era molto rivalutata anche come paese socialista, proprio per questo revival dei movimenti anche in Europa occidentale. C'erano molti scambi di intellettuali, di artisti, molti scambi culturali, frontiere aperte, e c'era questa idea che la Jugoslavia fosse comunque un paese molto progressista, che aveva sviluppato un sistema originale dell'autogestione, diverso diciamo dal blocco sovietico. E poi appunto per la Jugoslavia giravano moltissime delegazioni straniere, moltissimi gruppi, moltissimi artisti. Infatti questa conferenza fu organizzata al Centro Culturale degli Studenti di Belgrado, che era un po' il centro di queste avanguardie europee, e fu organizzata da studiose che erano diciamo ricercatrici all'università, tra cui Žarna Papić, che poi ha fondato gli studi di genere a Belgrado, e Jasmina Tesanović, che alcuni conosceranno perché ha pubblicato alcuni libri anche in italiano, e Rada Ivekovic, che era invece ricercatrice alla facoltà di Zagabria, che anche lei ha pubblicato parecchi libri in italiano. Quindi questo è stato diciamo un po' il punto fondante del femminismo jugoslavo, di un femminismo ancora accademico, che ancora non aveva sviluppato delle pratiche politiche di massa. o comunque non aveva sviluppato delle pratiche di piazza, per esempio, e che però aveva deciso di cercare delle informazioni sui movimenti che all'epoca caratterizzavano l'Europa occidentale, specialmente l'Italia e la Francia, che erano i paesi con cui queste donne erano più in contatto. Per esempio Rada Ivekovic e Jasmina Tesanovic avevano vissuto a Roma e quindi erano direttamente in contatto con l'Italia, conoscevano il contesto italiano e si chiedevano in che modo queste esperienze italiane potevano aiutare a sviluppare un discorso femminista anche in Jugoslavia. E a questa conferenza dunque vengono parecchie italiane, qualche francese, delle femministe dell'Inghilterra, una polacca, delle tedesche, e si inizia dunque a parlare delle situazioni e particolarmente delle lotte o delle problematiche che sviluppano tutte nelle loro paese, no? Un po' questa cosa. Sì, ci sono state presentazioni da parte di tutte. Delle italiane parlò Chiara Saraceno, poi anche Maria Rosa Cutrufelli fece un intervento, e delle francesi parlò Christine Delphi. E parlarono anche le francesi del femminismo della differenza di Psyché Politique, dell'Edition des Femmes. E poi dall'Inghilterra parlò Jill Lewis, una sociologa, Diana Leonard e appunto Eva Morawska dalla Polonia, che però viveva in Inghilterra già all'epoca. E dunque il pezzo che hai letto all'inizio fa proprio capire un po' la differenza delle problematiche che esistono tra le Jugoslavie e diciamo le altre, no? Perché loro della Jugoslavia erano molto legato anche a, se non mi sbaglio, aiutami Olga, sono dentro come questo movimento socialista, no? Sì, diciamo che in Jugoslavia c'era stato questo grande movimento durante la resistenza, c'era stato un movimento di donne resistenti molto forte, quasi 100.000 donne hanno partecipato in armi alla resistenza e 1 milione di donne facevano parte del fronte antifascista. Delle donne alla fine della guerra, perché era stata appunto una guerra totale, una guerra civile che aveva decimato la popolazione, quindi moltissime donne si erano unite al movimento partigiano, che era un po' il movimento che era riuscito a unificare il paese e alla fine della guerra, e alla fine, diciamo, questo sforzo era stato talmente importante che era stato riconosciuto che le donne avevano acquisito la parità, l'emancipazione, quindi sono state approvate leggi paritarie sul lavoro, ma anche sulla famiglia. C'era già una legge sull'eguaglianza nella famiglia molto prima, e anche sull'aborto, se non sbaglio, e anche sull'aborto, sì, che fu legalizzato, seppur con la necessità di passare attraverso una commissione medica negli anni 50. E comunque erano senz'altro, che era legalizzato, e che però appunto le femministe poi criticarono negli anni 70 perché costituiva la principale forma di contraccezione. Poi no, c'erano tutte queste contraddizioni, però c'era l'idea che il socialismo aveva in qualche modo portato diciamo elementi molto positivi. Per esempio l'alfabetizzazione, era stata un'alfabetizzazione di massa e in certe aree l'analfabetismo era pari al 90%, quindi c'era questa idea comunque delle conquiste, e anche una difficoltà di articolare un discorso critico rispetto al sistema socialista, che comunque formalmente autorizzava l'autonomia dei movimenti e l'autonomia del movimento delle donne, no? Sì. Poi il contesto jugoslavo era anche molto particolare, forse diverso da altre situazioni di più regimi, sì, insomma, diciamo, in qualche modo. Io volevo chiedere, dunque, in questo contesto, quali sono le preoccupazioni delle femministe jugoslave? Che loro, cioè, che hanno da chiedere di più? Beh, diciamo appunto che questo è stato tutto il problema, cioè questo è stato il motivo principalmente per cui non si è sviluppato un movimento di piazza, un movimento attivista fino agli anni 80 in Jugoslavia, cioè che c'era questa idea che comunque fossero state le leggi principali fossero state approvate, no? E però cosa dicevano le femministe degli anni 70 all'epoca? Usavano questa idea del fatto che la rivoluzione avesse garantito tutto quanto, per dire un attimo, guardiamo bene cosa succede. nella vita di tutti i giorni, no? C'era questa cosa che mi ha detto per esempio Rada Ivekovic, che gli uomini dicevano: sì, sì, volete l'autogestione, potete andare ad autogestire le pentole. Mm-hmm. Cioè, quindi c'era questa cosa, le donne quanto partecipano poi in realtà all'autogestione? Le riunioni sono tutte la sera, le donne anche erano molto attive, si sono ritirate dalla vita politica perché non hanno tempo, perché devono occuparsi dei bambini, della famiglia. Quindi questa cosa del fatto che la famiglia non fosse stata toccata da questa rivoluzione socialista, cioè tutto avveniva nella sfera del pubblico, alfabetizzazione, lavoro, eccetera, ma le donne continuavano a fare il doppio lavoro a casa e fuori, e poi comunque c'era anche un forte sessismo nella stampa, perché la Jugoslavia aveva questo sistema autogestionario ma al tempo stesso più aperto al mercato, più aperto all'Occidente, ai consumi in generale. E quindi ci fu a questa conferenza di Belgrado una mostra sul sessismo nella stampa, mm-hmm. con foto di donne, oggetto, insomma, quindi c'è, come dire, loro mostravano le contraddizioni di questo sistema che si voleva tanto paritario, tanto egalitario, ma alla fine poi riproduceva una serie di stereotipi e una serie di discriminazioni, ecco. Mm. E arrivano in questa conferenza le straniere, arrivano, sì, loro con altre problematiche, perché cioè, loro non hanno queste leggi ancora, no, mi sa, no, ma invece lavorano su altre cose e chiedono, cioè, nell'articolo che hai scritto, per esempio, cioè, si vede bene che prima di tutto contestano il misto della conferenza. Sì, sì, il fatto che ci fosse questo sociologo che parlava appunto dell'oppressione femminile. Questa è una cosa che per le italiane era intollerabile, insomma, questo, e anche per le francesi ci fu questo sociologo che diceva: aspettate, fatemi finire, non è ancora finito, è complicato parlare dell'oppressione femminile. E loro dicevano: ma tu, cioè, proprio non ci stai a dire niente, nel senso, cosa fai qua? E dunque la conferenza ha iniziato con delle tensioni intorno a queste cose. Ma anche per dire, le italiane si stupirono moltissimo, non si sa perché, del fatto che gli uomini jugoslavi le fischiavano per strada. E le jugoslave dissero: ma qual è il vostro, cioè, che problema vi crea questo? Perché vi stupite, in primo luogo, che gli uomini vi fischiano per strada, e secondo, cioè, non ci sembra la cosa più rilevante, insomma, c'è proprio una diversa priorità, ecco. Sì. Facciamo sì, uno stacchetto musicale. Dunque si continua a raccontare questa conferenza di Belgrado tra femministe jugoslavie e femministe venute dall'Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Germania, e dunque arrivano e quali sono, perché infatti io volevo fare un piccolo passo indietro, non ne abbiamo parlato molto ma svilupperemo dopo. Tu comunque hai fatto questa ricerca intorno a questa conferenza, sì, non solo, ma in particolare per oggi parliamo di questo, e tu sei andata a intervistarle. Dunque, sì, hai incontrato, diciamo, sia quelle che hanno sia le jugoslave che hanno invitate o partecipato a questo, mm-hmm. Hai fatto un lavoro di ricerca di archivi. Sì, ho fatto in tutto 12 interviste e poi un po' di archivi, soprattutto della stampa italiana, francese, mm-hmm. jugoslava. Mm-hmm. E, solo che appunto anche la percezione di questa conferenza si è trasformata nel tempo, nel senso che le Jugoslavie ricordavano di più questa conferenza come il momento fondativo del loro femminismo, che poi si è sviluppato negli anni 80, negli anni 90 contro la guerra. Tutte queste femministe che stavano a questa conferenza sono diventate attiviste contro il nazionalismo e contro la guerra, e quindi questa conferenza è diventata un po' il mito fondatore di questa generazione antinazionalista. Però appunto, andando a vedere poi i testi delle italiane, invece si ritrovava molto di più questa questione del conflitto, questa questione del non detto. Sì, ma perché comunque, cioè, tu parli di una cosa che comunque si vedeva dopo, no? Sì. Si è visto dopo come questa conferenza è stata importante nella costruzione del movimento femminista lì nei Balcani. E invece la cosa, no, da cui parlevamo adesso è proprio il momento, certo, della, certo, conferenza. Ma infatti, come, no? Si è trasformata la percezione nel tempo e come era all'epoca, no? Sì, certo, perché comunque c'è del tempo che è passato. E dunque, per parlare delle reazioni delle italiane. Appunto, le italiane si trovano straniate, spaesate, non capiscono il contesto, anche perché le traduzioni erano molto difficoltose. Comunque c'era questa, quindi tutte dicevano: non so se ho capito la traduzione, però vorrei fare questa critica, perché c'era sempre l'idea che non si era capito fino in fondo. Cioè, anche il problema di traduzione, però soprattutto il problema di diverse esperienze, diverso contesto. Quindi, per esempio, Manuela Freire, quando viene contestato questo sociologo, dice che sente aria di casa, no? Sente aria di manifestazioni italiane, di separatismo, di... però in realtà poi dice, scrive nel suo articolo, non era per niente aria di casa, perché, come ho verificato in seguito, quelle veramente diverse da noi erano le donne jugoslave, anche se tuttora non saprei dire il perché. Quindi questa idea della similitudine, perché queste donne erano comunque cosmopolite, istruite, vivevano tutte nelle grandi città, però avevano un altro tipo di linguaggio che alle italiane sembrava un linguaggio superato, perché per esempio Maria Rosa Cutrufelli dice: noi questi dibattiti sul marxismo e sul femminismo e sulla possibilità del femminismo come umanesimo marxista, cioè erano cose che già da... le avevamo dibattute per 8-10 anni e già ci sembravano molto superate. Quindi c'è questa idea di ritrovarsi in un momento storico, c'è questa idea del loro sono indietro, no? Cioè loro sono, sì, rimaste indietro politica, cioè nel senso essenzialista del termine, ma nel senso di movimento, cioè il loro movimento ancora si deve sviluppare e assomiglia al nostro movimento di una decina d'anni fa. Questo lo dice anche Christine Delphi, cioè questa idea, per esempio, di 10 donne che camminano tutte insieme per la strada o che vanno al ristorante, è una cosa che a Parigi 10 anni fa non si poteva fare, ora si può fare, a Belgrado ancora devono no, quindi c'è questa idea di diversi tempi del movimento, ma anche un certo maternalismo, come poi rivelavano le jugoslave, c'è questa idea del fatto che le altre non prendono in considerazione il percorso che è stato fatto, questa difficoltà di capire il percorso differente, insomma, che infatti comunque è una costante quando ci ritroviamo a confrontare i differenti femminismi delle differenti culture, che sì, cioè, infatti, metterlo così nel tempo comunque vieta o impedisce la vera analisi dei percorsi, e spesso impedisce anche lo scambio e l'arricchimento. Certo, però è anche una cosa anche un certo tipo di pensiero che comunque era anche, diciamo, proprio delle partecipanti all'epoca, questa idea del lineare, del tempo, sì, infatti, del progressista, dello sviluppo, perché anche la magari sarebbe superato polacca, adesso, che saremmo un'altra situazione tra femministe. Anche la partecipante polacca diceva: noi eravamo 50 anni indietro, le jugoslave erano 20 anni avanti e le italiane altri 15 avanti. Cioè, tutta questa cosa, come si misura, sì, come si misura l'emancipazione, il tempo del femminismo. Tu pensi che a questo momento che possiamo ascoltare l'audio, perché questo è anche un pezzo di archivio molto importante. Un pezzo di archivio trovato a Belgrado, è una cassetta che è stata recuperata tramite delle femministe di Belgrado e che registra appunto le italiane che descrivono il loro percorso femminista, e in particolare Letizia Paolozzi e Michela De Giorgio. quindi non so se possiamo farla passare. Non si sente molto, non si sente benissimo perché è stata registrata in modi improvvisati, ma comunque è una cosa d'archivio. Allora, siccome mi avete chiesto di mandarlo a una cinquantina di secondi, eccolo qua. Eccolo. Dunque, io sono molto soddisfatta del mio femminismo, delle mie amiche femministe e tutte le donne stupende che ho incontrato nel femminismo. Sono felicissima di aver fatto tutte le cose che ho fatto con le donne, che vuol dire scoprire, per esempio, un altro modo di essere amiche con le donne, che è diversissimo dalle amicizie che si avevano prima. A parte che io prima avevo avuto molto pochissime amiche donne, e invece adesso proprio nella mia giornata ci sono dei ritmi di telefonate, di appuntamenti con le donne che prima non c'erano e che sono essenziali, perché non sono soltanto delle confidenze, sono anche, hanno moltissimo ancora il segno di essere dei fatti politici. Poi che cosa ho fatto di stupendo con le donne? Probabilmente sono ancora la parte dell'umanità, credo, che mi interessa di più. O quantomeno mi rendo conto che mi interessano moltissimo e sempre di più gli uomini più femminilizzati, cioè quelli che più la loro parte femminile fanno uscire fuori, che secondo me sono moltissimi e sempre più tanti. I grandissimi piaceri del femminismo che ancora ho sono stati quelli di fare, per esempio, scoprire di fare dei viaggi insieme alle donne, per esempio questo che abbiamo fatto a Belgrado, l'abbiamo fatto quattro donne insieme, di scoprire un modo di divertirsi, di ballare, di fare le vacanze. Tutto questo è ancora una parte stupenda della mia vita che mi consola moltissimo, ma probabilmente mi avrebbe consolato e forse non sarebbe rispetto a degli smacchi, forse delle tristezze, non so, il fatto che è finito il mio matrimonio, ma penso che, come dice una mia cara amica femminista, che i matrimoni finiscono anche nelle coppie borghesi più tradizionali. Quindi voglio dire, non ci sono state solo delle compensazioni da parte delle donne verso la mia vita privata, c'è stata proprio un'enorme pienezza, una grandissima felicità che ancora c'è, esiste. Non l'hai già detto allora? No, non ho detto che non sono contenta, probabilmente ho fatto una descrizione sociologica di un fenomeno che è anche da tener conto, cioè quanto poi rispetto alla a questa profonda conoscenza che le donne hanno fatto di se stesse, la domanda che anche pongono agli uomini, quindi anche ai sentimenti, all'affettività, all'amore, alla sessualità, è sempre più alta. Cioè, voglio dire, mia madre si è accontentata nella sua vita di un rapporto legato a un certo tipo di domande che avevano poi il loro valore. Oggi degli strumenti di conoscenza proprio di sé più avanzati alzano il tiro di queste domande, quindi probabilmente rispetto a questa grossa passionalità che poi ha dato il femminismo nelle sue scoperte, l'affettività, il valore della solidarietà, della tenerezza, dei sentimenti, probabilmente si va anche più complicato il rapporto con l'uomo, in questo senso dico. Questo è solo un aspetto poi di questo mutamento che oggi le donne vivono, cioè di aver portato questa grande innovazione e oggi di viverla anche con degli squilibri. Non volevo dire che non ero contenta e che non conviene essere femminista. Sì, a me sembra che il punto centrale è stata la scoperta delle altre donne, una scoperta in modo diverso, nel senso che non sono più, per quanto è possibile, delle rivali come era prima. Non si nutre più questa tremenda gelosia, o almeno si controlla di più, e questo è stato un grande punto. Mi sembra che da questo poi sono venute fuori alcune altre cose. Una, mi pare un rapporto più pacificato con il lavoro come possibilità di identificarsi in quello che si fa, cioè una minore ansia competitiva, una minore angoscia di riuscire, di arrivare, insomma una, come una tranquillità in cui si sa che si ha una pienezza, una ricchezza di rapporti alle spalle che ti sorregge. E questo io credo, perché penso che poi la solitudine pesi molto, almeno a me, che non so a chi non è pesata, delle donne, sia un fatto che una volta che viene poi ratificato, che in fondo tu per tutta la vita avrai queste altre amiche, ma altre donne, e non sei più legata a questo vernio che è l'uomo, il quale se pensa di lasciarti tu ti devi buttare dalla finestra, dalla disperazione, questo è un fatto molto importante. Quindi proprio anche come controllo, come possibilità di non essere in balia di questo sentimento che poi ti imponeva l'uomo per dimostrare che tu lo amavi. Dopodiché il rapporto con l'uomo se ne avvantaggia, perché naturalmente uno non ha più questa elemosina affettiva, non ce l'ha più così evidente come una volta. E poi ancora una cosa, credo una possibilità di guardare se stesse e il proprio corpo, la propria immagine, non con l'ansia che non piaccia, nel senso che c'era sempre questa minaccia di uno sguardo maschile che ti giudicava, ti valutava e ti acquistava oppure ti lasciava cadere se non eri più quella giovane e bella. E quindi direi un modo per affrontare poi la vecchiaia, che a me sembra che sia stato e sia ancora un problema torturante per le donne, e invece anche qui una possibilità di dire: voglio invecchiare bene. Dunque, stiamo parlando con Chiara Bonfiglioli del suo lavoro che ha fatto intorno a una, tra l'altro, a una conferenza che si è svolta a Belgrado nel 78. Sì, avete ascoltato in questo lungo estratto da una cassetta, avete ascoltato le testimonianze di Letizia Paolozzi e Michela De Giorgio. Spero di aver capito bene che sono loro. Hai fatto un riconoscimento. Ho fatto vocale. Una specie di riconoscimento ascoltando dei video su YouTube, cercando di capire chi era che parlava, avendo dei nomi, però senza avere il nome esatto di chi parlava. Però penso che siano loro. E in cui appunto descrivevano il loro percorso alle femministe jugoslave, e in cui descrivevano appunto questa scoperta delle altre donne, che è stata il percorso femminista, cioè il fatto di vedere le altre donne non più come rivali, il fatto di avere queste amicizie molto forti e il fatto cioè come questo fatto cambia anche il rapporto con l'uomo e il rapporto con se stesse, cioè la possibilità di una realizzazione di sé differente. Infatti le femministe che hanno cioè, vissuto i momenti degli anni 70, dicono, cioè, è vero che avevo queste lotte per le leggi, l'aborto e tutto questo, ma comunque la cosa principale è che ci siamo incontrate, siamo uscite dalle case e ci siamo per la prima volta incontrate insieme, abbiamo parlato di noi. Certo, ma anche per esempio su questo incontro di Belgrado, la prima cosa che le donne che ho intervistato mi hanno detto, anche le donne jugoslave, cioè nonostante tutti questi scontri e scazzi che ci sono stati tra di loro, la prima cosa che tutte hanno ricordato è stata questa atmosfera di grandissimo entusiasmo, queste cene nei ristoranti di Belgrado, queste passare del tempo insieme in un modo molto diverso da quello che era la conferenza tradizionale del femminismo di Stato socialista, ecco, cioè un altro tipo, una spontaneità che non era stata vista prima, ecco, quindi tutte hanno ricordato questo con grande entusiasmo, questo incontro fra le donne e con le altre donne. Sì, perché infatti dopo i scontri, questa, no, questo che avevi letto all'inizio, all'alba del terzo giorno ci siamo finalmente trovate tutte insieme a casa. Sì, cioè alla fine la discussione è sembrata tutta più aperta, è sembrata tutta più spontanea. E hanno trovato i punti. Sono stati trovati dei punti in comune. E poi appunto il fatto di aprire questa discussione, diciamo la cosa importante è stata anche l'attenzione della stampa jugoslava. Mm-hmm. Cioè il fatto che ci fossero delle femministe internazionali ha permesso di parlare di tutta una serie di questioni che di solito non venivano affrontate, quindi c'è stata proprio questa apertura di tematiche importanti come la tematica del privato, della famiglia, che sono state poi affrontate da queste donne nella vita quotidiana come giornaliste o come ricercatrici, eccetera, e appunto anche incontri personali, no? Sì, infatti tu mi raccontavi incontri e così andiamo anche sul fatto che mi dicevi per esempio il lesbismo non è mai non era nelle discussioni, no? No, non ci sono state discussioni. Però appunto intervistando alcune partecipanti è stato chiaro che ci fossero anche, allora intanto da una parte c'è stata questa paura della donna, soprattutto occidentale, da parte delle jugoslave, vestita male, hippie, cioè della donna poco femminile, no? Sì, quindi c'è questo. Uscivano delle anni 60. Sì, quindi però che in Jugoslavia ancora era visto in modo abbastanza critico, cioè queste donne che mi guardano male perché mi sono fatta le unghie, aiuto, non voglio essere femminista, cioè se questo è il loro femminismo. Però dall'altra parte ci sono stati incontri molto importanti, per cui, per esempio, lei Pamela Jenović, che poi è diventata un'importante attivista lesbica di Belgrado, lei rimase folgorata da Christine Delphi perché fu la prima persona che vide che si comportava fisicamente in modo diverso rispetto, cioè che occupava lo spazio in modo diverso, no? Che aveva questa sicurezza, questo modo di fare che non rientrava nella norma eterosessuale, ecco, ed è. Si ricorda benissimo di questa presenza e dice sì, le italiane erano progressiste, però erano un po', somigliavano un po' alle mie zie, invece Christine Delphi era completamente diversa. Tra l'altro appunto lei se la ricorda talmente con tanta passione che nel suo racconto Christine Delphi è stata lei a buttare fuori il sociologo. Uh-huh. Uomo, no? Anche se non è vero, però è diventata memoria. Talmente un'eroina nella memoria che sì. È stata lei, no? E l'EPA continua comunque il suo militantismo lesbico adesso. L'EPA ha fondato, lavora in un'associazione di Belgrado, ha fondato anche questo centro autonomo negli anni 90, è stata una delle maggiori attiviste contro la guerra. Uh-huh. E ha anche scritto questo articolo, una lesbica in tempo di guerra, no? Comunque io quando sono arrivata a Parigi c'era un gruppo di lesbiche in relazione con femministe lesbiche contro la guerra a Belgrado, e comunque i legami sono rimasti forti per molto tempo. Adesso non lo so, ma comunque negli anni 80-85. Sì, lei è stata una delle fondatrici poi negli anni, fine degli anni 80, di questa prima casa protetta. Mm-hmm. Quindi alla fine degli anni 80 a Belgrado, Zagabria, a Lubiana sono nati questi primi telefoni, linee telefoniche per le donne vittime di violenza. Mm. E anche le prime case protette per donne vittime di violenza, che poi quando c'è stata la guerra si sono trasformate anche in punti di accoglienza delle donne rifugiate dalla Bosnia e così via, insomma. Okay. Facciamo un piccolo stacco musicale. Riprendiamo subito. Così parliamo. Torniamo in studio, stiamo parlando insomma della conferenza internazionale di Belgrado che si è tenuta nel 78. Devo dire che appunto quando io ho letto, scusate, ogni tanto mi parte la cuffia, penso che scompaio anch'io, invece ci siamo. Quando ho letto insomma questo resoconto che ci hai mandato sul tuo lavoro, su questa conferenza, poi a parte aver trovato molti spunti di riflessione proprio sullo sguardo sull'altra, no? E prima parlavamo delle apparenze, un altro aspetto che mi aveva colpito, perché insomma diciamo è un po' un inciampo che capita quando, infatti forse 3 giorni ci vogliono un minimo per conoscersi e guardarsi in modo autentico l'una con l'altra, è per esempio che le italiane avevano una visione del soggetto femminista, diciamo così, o femminile, insomma, delle donne di Belgrado come un blocco unico, come tutte uguali, invece chiaramente ci sono anche molte differenze all'interno di stessi gruppi, è importante saperle mettere a fuoco. E quindi c'era questo episodio legato alla donna del Kosovo che l'ho trovato insomma interessante, perché ha creato un momento di così di contraddizione interna, non so se sì, vuoi... Sì, c'è stato un momento di diciamo di panico, perché le italiane hanno chiesto alle jugoslave: ma allora l'aborto da voi è permesso? E una ragazza del Kosovo ha risposto che non era permesso, e quindi è stata sgridata dalle organizzatrici dicendo: ma come, cosa dici, certo che è permesso, come ti viene in mente? E ha creato una sorta di frattura nella rappresentazione che davano di sé, ma anche nell'autorappresentazione che davano di sé le organizzatrici, come diciamo istruite, consapevoli dei loro diritti, e quindi cioè questa cosa, le italiane non sapevano che l'aborto era permesso, si immaginavano che non fosse permesso perché da loro non era permesso. Ma le jugoslave non riuscivano neanche a concepire il fatto che in certi contesti, come in quello del Kosovo, l'aborto non fosse concepito come permesso, cioè anche se legalmente era permesso, non si sarebbe mai fatto. Moralmente, diciamo, non era. E quindi questo è un punto interessante, perché fa proprio vedere le differenze tra donne, quindi la, che tipo di soggetto femminista si era costituito, esatto. Da, che tipo di femminismo era nato, e si trattava di un femminismo prevalentemente ancora accademico, urbano, di donne comunque che erano ricercatrici, studiose, quindi che avevano tutto un percorso alle spalle, cosmopolite, perché parlavano tutte due o tre lingue, avevano viaggiato fuori dal paese, eccetera. Quindi anche questa difficoltà, no, di come dire, di capire l'altra, ma non solo l'altra, la straniera, ma anche se stesse e le differenze interne in un paese, insomma. Eh sì, e poi anche le italiane si rappresentavano in un certo modo, appunto, come capaci di essere, diciamo, di aver penetrato nella mentalità, di aver fatto penetrare il femminismo nella mentalità, diciamo, culturale, nella cultura italiana, e quindi averlo trasformato in un movimento di massa, per esempio, no? Sì, per esempio, Carla Lavaglioli si vede molto bene anche nei vari articoli, per esempio quello di Carla Lavaglioli, ma anche negli altri, che le italiane hanno questa visione di sé, del movimento femminista, come di un movimento che è riuscito a toccare le masse, a cambiare il senso comune, che secondo me è una visione che dovremmo anche storicizzare, problematizzare, vedendo anche la situazione attuale, insomma, per esempio. E si chiedevano, appunto, cito da Carla Lavaglioli, cioè parlavano delle jugoslave dicendo sì, sono ragazze colte, istruite, cosmopolite, e si chiedevano: riusciranno a farsi avanguardia provocatrice, come è accaduto da noi, a essere testa di ponte di un movimento teso a coinvolgere e a trascinare anche le altre, a modificare mentalità e comportamenti, a creare un nuovo senso comune nel loro paese? Sottinteso, come abbiamo fatto noi, cioè come noi siamo riuscite a modificare il senso comune, ecco. È successo? Non lo so. Questa è sempre una grande domanda. No, appunto, infatti. Ma io volevo chiederti un po' sulle tue metodi di lavoro, no? Come sei arrivata alla conferenza del 78? È una storia complicata. Allora, ero sicura di voler fare qualcosa sulla questione di genere in ex Jugoslavia, però vari studiosi mi hanno detto: ma non fare qualcosa di troppo contemporaneo, non lavorare sugli anni 90. Perché cosa è successo? Che negli anni 90 moltissime femministe occidentali sono andate nei Balcani con una mentalità un po' umanitaria, un po' di... cioè è cambiato proprio il tipo di sguardo, no? Se prima la Jugoslavia era visto come un paese socialista, in qualche modo arretrato economicamente, però interessante, importante sul piano internazionale, poi dopo che ci sono state le guerre negli anni 90 è prevalsa questa visione più essenzialista, quindi delle donne dell'ex Jugoslavia come vittime, no? Perché si è parlato soprattutto di donne dell'ex Jugoslavia come vittime degli stupri di guerra, eccetera, e quindi si è guardato molto di più a situazioni di vittimizzazione, che pure ci sono state, perché appunto è stata un fenomeno terribile, no? Cioè questa degli stupri di guerra in Bosnia ed in Croazia, però non si è visto il lavoro autonomo che è stato fatto lì, cioè il percorso autonomo che è stato fatto lì è stato un po' dimenticato, quindi per via del fatto che le occidentali sono andate lì a investigare sul nazionalismo del genere, mi è stato consigliato: no, guarda, lascia perdere, perché queste donne sono state intervistate sulla questione del nazionalismo e sulla questione della guerra tantissime volte, e è comunque una questione che viene posta in termini per loro colonizzanti, insomma, no? Di andare sempre lì a vedere: allora siete vittime, allora com'è stato il nazionalismo, com'è stata la guerra. E quindi è venuta fuori questa conferenza degli anni 70, che tutte ricordavano come un episodio molto positivo, invece, sì. A differenza degli anni più recenti. E per questo ho deciso di guardare un po' a questa conferenza, e perché anche lasciava più spazio alle donne che ho intervistato di parlare del loro percorso, no? Cioè di aprire tutta una serie di temi che non erano sempre gli stessi, che non erano sempre i temi già visti e rivisti, ecco. Infatti. Beh, io Devo dire che per me è veramente interessante, a parte che comunque è sempre interessante di tornare non nella storia per capire un po' queste problematiche tematiche, che comunque c'è, come l'abbiamo detto più di una volta, sia il confronto tra i diversi femminismi, questa visione lineare che comunque continua, come, no? Perché come lo dicevamo, le leggi che il Partito Socialismo aveva messo in piedi, aveva fatto, comunque non è che sono cadute così, cioè sono le donne all'interno del socialismo, del partito, che le hanno spinte, dunque c'erano un'azione. No? Certo, ci sono sempre conflitti interni, anche se poi sono state presentate come concesse dal partito, però in realtà ci sono state lotte molto... E che dall'altra parte le italiane, le occidentali avevano un altro percorso, e che comunque c'è... Beh, sì, io perché lo vedo percorso... proprio come diverse strategie, certo, in contesti storici diversi, no? Sì, ma anche per il livello di politicizzazione che c'era in Italia negli anni 70, comunque, per la critica che era stata fatta al marxismo, al Partito Comunista, ai movimenti extraparlamentari, cioè è stata sviluppata tutta una critica ma proprio di movimento, di piazza, che non esisteva in Jugoslavia e che però appunto, cioè, si sviluppò di più alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, no? Quindi i tempi dipendono anche molto dal, secondo me, i linguaggi, i tempi del femminismo e dei movimenti dipendono molto anche dal contesto politico, certo, che ci sta intorno, che non li possiamo isolare, no, diciamo, no? E questo, secondo me, questo è quello che ho imparato da questa ricerca. Poi sì, così. Bene, a quel punto potremmo ringraziarti perché grazie veramente, sì, molto interessante. Sì, infatti, tienici aggiornata. Va bene, sulle tue ricerche. Sto lavorando sull'UDI, cioè sui contatti che ci sono stati prima, nel dopoguerra. Sempre fra italiane e jugoslave, però nel primo dopoguerra. Sì, sì, è una prospettiva molto interessante. Poi, insomma, si sa, la storia delle donne ce la dobbiamo sempre fare un po' da sole, perché non la farà analizzare le situazioni attuali, sia dentro dove siamo noi, no? In Italia, in Francia, sia con i legami tra noi e altri femminismi, non so, indiano, arabo, cioè, tutto questo, per avere una lettura un po' più ampia, un po' più dinamica, direi. Sì. Ci vuole, abbiamo capito, insomma, pazienza, perché in 3 giorni comunque già la situazione e le relazioni sono molto migliorate tra queste donne. Quante eravamo in questa conferenza? Circa un'ottantina, un centinaio. Non è poco, no. infatti, è difficile gestire, sì, è vero. Va bene, grazie mille. A te. Grazie, ciao, Chiara, grazie.